Focus Economia. Buon pomeriggio, ben ritrovati. Sono le 17:08 minuti. Oggi è giovedì 26 marzo, una puntata un po' particolare di Focus Economia perché andremo in onda sia da Milano che da Taormina, dove si trova Sebastiano Barisoni e dove è in corso la terza edizione del forum di Confagricoltura. E quindi gran parte della nostra attenzione sarà dedicata alle tematiche agricole a tutto tondo, quindi dalle quote latte fino agli effetti della crisi su questo settore. E poi ci concentreremo, come avete sentito anche nel nostro giornale radio, sui dati comunicati oggi dal Centro Studi della Confindustria sull'economia italiana. Prima però di partire voglio dirvi che cosa sta succedendo sui mercati. In questo momento i listini americani continuano una seduta positiva nonostante i dati macroeconomici in arrivo oggi dall'America piuttosto negativi, e così il Dow Jones sta guadagnando poco più di un punto percentuale, il Nasdaq il 2,36%, lo Standard & Poor's l'1,26%. L'Europa procede un po' in ordine sparso con Parigi che cede un po' più di mezzo punto percentuale, Francoforte guadagna lo 0,63%, Londra guadagna lo 0,25%, a Milano il MIBDAL è in progresso dello 0,53, l'S&P MIB dello 0,64%. Per quel che riguarda i cambi, l'euro viene scambiato 1,35,53 sul dollaro. Il numero per inviare tutti i vostri SMS è 349-238-6666. Adesso le nostre notizie in breve. E partiamo come al solito con il petrolio. A New York il greggio apre in rialzo a $54,52, in progresso del 3,3%. E tornano i rialzi anche sui listini dei carburanti, con i ritocchi messi in atto oggi attorno ai 3 centesimi di euro al litro. Tutte le compagnie hanno portato sopra quota 1,21 euro al litro il prezzo di riferimento della benzina, con molti marchi che sfiorano addirittura 1,22 euro. Anche il gasolio fa registrare un rincaro attorno ai 2 centesimi di euro al litro. Dai mercati, nuovo minimo per il rendimento dei bot a 6 mesi a 1,168. L'economia internazionale, lo dicevamo qualche istante fa, gli indici americani vanno piuttosto bene, anche se i dati in arrivo dagli Stati Uniti sono davvero bruttini. Il PIL statunitense nel quarto trimestre 2008 è stato rivisto al ribasso, evidenziando una contrazione del 6,3% dal 6,2% della seconda lettura. Il dato è certo migliore delle stime degli economisti, che avevano previsto un meno 6,6%. Il ribasso degli ultimi tre mesi dello scorso anno, evidenziato dalla lettura finale del PIL americano, resta il più forte dal primo trimestre del 1982, quando il PIL segnò un meno 6,4%. E ancora, sempre dagli Stati Uniti, gli utili societari, sempre nel quarto trimestre del 2008, sono crollati del 16,5% rispetto ai tre mesi precedenti, segnando la contrazione più forte dal 1953. Questo è quanto emerge dalla statistica sul PIL USA dell'ultimo trimestre 2008. Salgono anche le richieste di sussidio di disoccupazione, sono aumentate di 8.000 unità a 652.000, la settimana scorsa erano a 650.000, il dato è al di sopra delle stime degli analisti. Oggi ha parlato nuovamente il segretario al tesoro Timothy Geithner, segretario al tesoro americano. La crisi ha mostrato la necessità di nuove regole del gioco, ha detto Geithner nel corso dell'audizione alla Commissione Servizi Finanziari della Camera, sottolineando che sono necessarie norme di capitali più conservatrici per le società importanti a livello di sistema. E ancora, il piano per l'acquisto di asset tossici presentato dal segretario Geithner viene promosso dal Fondo Monetario Internazionale. Diamo il benvenuto al piano, che rappresenta un importante passo verso una nuova cornice di azioni che abbiamo sollecitato, e come ha detto il direttore generale del fondo, Strauss-Kahn, riteniamo che sia molto importante la velocità di attuazione. Questo è quanto ha dichiarato il numero uno del Dipartimento delle Relazioni Esterne del Fondo Monetario. Veniamo all'Italia, lo dicevamo prima, i dati della Confindustria. La Confindustria rivede al ribasso le stime del PIL 2009. Quest'anno, secondo il Centro Studi di Viale dell'Astronomia, il PIL dovrebbe diminuire del 3,5%. La previsione, spiega Confindustria, incorpora il ritorno alla crescita già nella seconda metà dell'anno. Per il 2010 la Confindustria prevede una crescita dello 0,8%. E sempre per quanto riguarda i dati del Centro Studi, il deficit pubblico aumenterà nel 2009 al 4,6% del PIL, dal 2,7% del 2008. Questa è la previsione del Centro Studi della Confindustria. Il peggioramento è causato principalmente dall'andamento negativo delle entrate. Ancora, sempre dal Centro Studi, tra la metà del 2008 e la metà del 2010 in Italia verranno persi 507.000 posti di lavoro, il 2,2% dell'occupazione totale. Questo è quanto sottolinea il Centro Studi, che però, come nota positiva, dice che il calo dei prezzi dei prodotti energetici porterà nel 2009 risparmi per le bollette delle famiglie di circa 850 euro. Il Centro Studi prevede anche che, per quanto riguarda nel complesso il risparmio della bolletta energetica in Italia raggiungerà i 35 miliardi di euro. E adesso invece andiamo all'estero. Prosegue il trend negativo dei flussi commerciali italiani verso i paesi extra UE. A febbraio le esportazioni sono diminuite del 21,9% rispetto a febbraio 2008 e le importazioni del 24%. Rispetto a gennaio le esportazioni sono aumentate di oltre 8 punti percentuali, mentre le importazioni sono diminuite del 3,6%. La crisi colpisce anche H&M, il gigante della moda low cost. Il colosso svedese ha registrato nel trimestre chiuso a febbraio un utile netto di 2,58 miliardi di corone, più o meno 320 milioni di dollari, contro i 2,94 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente. Questo è il primo calo da quasi 6 anni a questa parte. Ci spostiamo in Francia. È stato per una trentina di ore, da martedì pomeriggio alla scorsa notte, ostaggio degli operai il direttore dell'azienda farmaceutica americana 3M, Luc Rosselet, sequestrato dai dipendenti che contestano un piano di ristrutturazione che prevede la soppressione di 110 posti di lavoro su un totale di 235. L'uomo ha potuto lasciare il suo ufficio, nel quale era confinato da martedì pomeriggio, solo qualche minuto dopo la mezzanotte. E poi ancora, per quanto riguarda l'Italia, Fiat, grazie al buon andamento degli incentivi auto, la Fiat ha annullato la settimana di cassa integrazione a Mirafiori dal 30 marzo al 5 aprile. Lo si apprende da ambienti sindacali. La notizia sarà comunque comunicata oggi dall'azienda ai delegati in fabbrica. E adesso noi da Milano ci fermiamo, passiamo alla linea a Sebastiano Barisoni, che si trova appunto a Taormina, dove si apre oggi la terza edizione del forum di Confagricoltura. A te, Sebastiano. Sì, grazie Valeria e buonasera a te e ai nostri ascoltatori. Come ricordavi, siamo in collegamento dagli studi di Radio 24 a Taormina, dove si è aperto oggi il primo giorno di lavori del forum annuale di Confagricoltura. Come ogni anno Radio 24 è presente, vi saranno numerosi interventi, parlerà il ministro Tremonti e poi vi saranno quelli del vice ministro Urso. Domani sarà la volta anche del ministro Sacconi, oltre che del presidente dell'ABI Faissole, dell'ANIA Cerchiai. Chiuderà poi sabato l'opposizione con Bersani, ma non solo, è previsto anche l'intervento di Trevi Montalcini e, come ricordavamo, anche di Jacques Attali. Tema: il mondo agricolo, in un settore che rispetto agli altri è un settore che ha conosciuto obiettivamente un dato migliore nel 2008 e probabilmente anche nel 2009 rispetto agli altri settori che compongono il PIL, e cioè mi riferisco ai servizi e all'industria. Numerosi temi, e quindi temi relativi al quote latte come cronaca, ma anche alla globalizzazione dei prodotti agricoli. Ne parliamo e lo ringrazio per essere ospite negli studi Radio 24 con il presidente di Confagricoltura, Federico Vecchioni. Buonasera a voi Radio 24. Subito, come sempre, la scheda, l'andamento del settore e il tema delle quote latte. In tempi di crisi e di mondi di carta che vacillano, la riscoperta della terra e del lavoro agricolo è un filo rosso che lega molti paesi industrializzati. In Gran Bretagna le liste di attesa per ottenere piccoli appezzamenti da coltivare si allungano di giorno in giorno, mentre in Giappone il governo ha addirittura avviato un progetto per trasferire nelle campagne i giovani disoccupati. E in Italia? Premesso che l'agricoltura incide per meno del 3% sulla nostra economia, è indubbio che sinora il settore abbia svolto un ruolo anticrisi. Nel 2008 l'export è cresciuto del 7%, mentre il valore della produzione è salito del 2,4%, decisamente in controcorrente rispetto a un'economia che nel suo complesso è arretrata dell'1%. Tuttavia, anche per i coltivatori gli elementi di preoccupazione non mancano. Lo scorso gennaio le esportazioni hanno iniziato a segnare il passo e soprattutto i prezzi delle materie prime agricole sono da mesi in caduta libera. In 10 mesi le quotazioni di grano e mais sono scese del 50%, assottigliando i guadagni degli agricoltori ma senza portare benefici ai consumatori, visto che, dopo i tanti passaggi della filiera produttiva, i prezzi finali di pane e pasta restano pressoché invariati. C'è poi il nodo delle quote latte, che da 25 anni non si riesce a sciogliere in modo definitivo. Il problema è noto. L'Unione Europea assegna ogni anno delle quote produttive ai Paesi membri. Per l'Italia si tratta di circa 10 milioni di tonnellate distribuite tra oltre 40.000 aziende. 8.400 di queste non hanno rispettato i limiti assegnati e hanno accumulato multe per circa 1,6 miliardi di euro. Lo scorso novembre il governo ha raggiunto un accordo con Bruxelles per un aumento dei tetti produttivi del 5%. Ma soprattutto è stata concordata la possibilità per chi ha sforato di rateizzare il pagamento delle multe e partecipare alla distribuzione delle nuove quote sullo stesso piano delle aziende affittuali, ossia che hanno affittato quote per essere in regola con i limiti di produzione. Un'impostazione che non trova d'accordo le principali organizzazioni del settore, che parlano di una sanatoria per chi ha fatto il furbo in passato e chiedono pertanto al Parlamento di modificare i termini dell'accordo. E quindi, come avete sentito, quote latte, ma anche andamento del settore. Presidente Vecchioni, sgombriamo subito il campo dalla polemica di carattere anche più politico e poi andiamo invece sull'andamento del settore. Alla Camera, in commissione, dicono i suoi associati, soprattutto la Confagricoltura Lombarda, sono rientrati quei vantaggi di fatto per chi non ha rispettato i limiti, chi dovrebbe beccarsi una multa pari a 1 miliardo di euro, e in realtà, come dice anche l'opposizione, ma non solo, in questo modo vengono premiati i furbi. La vostra sorpresa e delusione, visto che al Senato il ministro Zaia, come aveva ricordato con lei anche ai nostri microfoni, aveva modificato, diciamo, una norma che oggettivamente era parsa a molti come un condono di fatto per chi negli anni non aveva rispettato le quote latte previste dall'Europa, a discapito di chi invece queste quote non solo le aveva rispettate, ma se le era anche comprate qualora avesse avuto bisogno di maggiore produzione. Ma noi ci auguriamo che il lavoro che è in corso in queste ore alla Camera, peraltro con moltissimi interventi, con posizioni che riprendono in modo molto trasparente quelle che sono state le nostre preoccupazioni di queste settimane, ci porti a un miglioramento definitivo di questo decreto. Siamo dell'avviso che ci siano le condizioni per poterlo fare, tenuto conto che gli emendamenti che sono stati introdotti nella Commissione Agricoltura della Camera sono emendamenti peggiorativi, ma abbiamo buone assicurazioni anche dalla maggioranza di una volontà di correggere soprattutto il capitolo relativo alla possibilità per coloro i quali avranno assegnata la quota di non pagare l'intera rata all'interno del percorso della rateizzazione, appunto. Il latte è un capitolo che deve trovare rapidamente conclusione, anche per, da un lato, ristabilire un clima meno lacerato come quello di questi giorni, ma ci auguriamo, come dicevamo, che il Parlamento faccia un corso positivo per quanto riguarda le nostre istanze. Sì, tra l'altro, come ultima domanda su questo, un annuncio a pagamento ieri presente su molti giornali da parte proprio della Confagricoltura Lombarda, quella che, anche perché la maggior parte del latte viene prodotto in Lombardia, in questo paese, quella che più si era scagliata contro le agevolazioni condono, insomma, dato a chi le quote non le aveva rispettate. Beh, in questo annuncio non posso ripercorrere tutto, ma viene fatto notare come è vero che siano 4.200 le aziende con multe per un importo totale dovuto a circa 1.380 milioni, e cioè in sostanza il grosso di questo 1.300 milioni lo fanno non tutte le aziende distribuite, ma praticamente il 25% del totale. Allora diventa ancora più difficile capire come mai per 1000 aziende che da sole fanno l'88% di questo miliardo e 300 milioni, quindi non è che sia distribuito in maniera uguale, ecco, per 1000 aziende che veramente hanno una grossa responsabilità, si smonti un intero meccanismo e si vadano a premiare i furbi, Presidente. Beh, le posizioni della Confagricoltura Lombardia sono quelle della Confagricoltura. Come ricordava, il comparto lattiero-caseario in Lombardia ha una particolare accezione, un particolare accento in termini di preoccupazioni anche sindacali. Noi abbiamo mantenuto in questo periodo una informazione che io ritengo sia stata molto corretta. I dati che lei ricordava sono quelli che noi abbiamo da sempre sostenuto. E quindi riteniamo che anche strumentalizzare la posizione del settore lattiero-caseario dicendo che Confagricoltura in questi giorni sia diventata antigovernativa ci appare un modo poco corretto e anche immaturo di intendere da un lato il ruolo delle organizzazioni confederali e dall'altro anche il ruolo dei corpi intermedi in una democrazia matura. Cambiamo tema, tanto adesso vedremo se appunto vi saranno modifiche su questo. Voi fate un convegno come quello annuale di Confagricoltura a pochi giorni dal G8 agricolo. Sappiamo che quest'anno vi saranno diversi G8, ci sarà il G8 G20 a Siracusa sull'ambiente, ci sarà il G8 agricolo voluto dal ministro Zai e poi c'è chiaramente quello più importante quanto a decisioni di inizio aprile a Londra, il G20. Per discutere della crisi e poi di nuovo un G8 all'isola della Maddalena in estate. I temi che voi porterete in termini di fabbisogno alimentare al G8 agricolo andranno in quale direzione? Andranno nella direzione di ritenere che le dinamiche economiche di questi ultimi anni, in particolar modo degli ultimi mesi che abbiamo vissuto, abbiano sancito e confermato il ruolo strategico dell'agricoltura in termini di produzione di materie prime, non solo per i paesi meno avanzati, ma anche per i paesi ad economia avanzata. Tornando al tema dell'approvvigionamento, un tema di grande attualità. In relazione a questo occorre ampliare la base produttiva, definire un disegno strategico che però contempli anche una riformulazione della governance che a livello mondiale presiede le dinamiche commerciali. La Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, per quanto ci riguarda l'OMC, il WTO di Ginevra, dovrebbero trovare una sede anche politica in cui definire delle politiche che consentano di avere un disegno, di carattere globale circa il ruolo dell'agricoltura. In tale direzione dunque Taormina porterà una serie di proposte in merito a questa governance, così come abbiamo voluto sottolineare la necessità in questa realtà molto globale di una politica agricola comunitaria che trova nelle prossime prospettive finanziarie la necessità di una presa di posizione degli Stati membri, tenuto conto che l'approvvigionamento che l'Europa in questi anni è riuscita a garantirsi non è stato in molti casi sufficiente, ha risentito della finanziarizzazione dell'agricoltura e anche di effetti speculativi. Beh, pensiamo solo a quello che è avvenuto l'anno scorso, ben prima che la crisi, diciamo, diventasse o entrasse nella sua parte più virulenta, con i prezzi delle materie agricole, delle materie prime di carattere agricolo, lì con molta polemica e anche un po' di confusione, a mio avviso, sull'uso del bioetanolo e delle biomasse, quando sapevamo che c'erano altri elementi dietro. Tra l'altro, su questo, per inciso, una previsione che già la nostra scheda ricordava sui prezzi delle materie prime agricole? Ma la previsione purtroppo è una previsione che ci vede, nonostante l'andamento del prodotto interno lordo abbia dato dei risultati rassicuranti, soprattutto nella chiusura del 2008, ci vede con un 2009 con una contrazione significativa dei prezzi delle materie prime, che ci fa ritenere che in particolar modo per quanto riguarda il governo del mercato, gli stoccaggi per le commodities cerealicole, ci sia effettivamente la necessità da parte del mondo agricolo di una migliore organizzazione dell'offerta. A latere c'è un'altra considerazione, cioè che rimane una concorrenza internazionale molto forte di cui noi non siamo evidentemente né attori né artefici e c'è una situazione che ci condanna comunque all'export, perché la bilancia agroalimentare italiana dice che noi i 26 miliardi di export che abbiamo avuto quest'anno come segnale positivo devono essere rafforzati in modo tale da garantire alla filiera agroalimentare una trasformazione che premi proprio il prezzo delle materie prime. E qui veniamo alle ultime due domande che ho per lei, una di carattere più internazionale sulla liberalizzazione del commercio e dall'altra invece di carattere più nazionale, locale, sui beni demaniali, le superfici demaniali. Però andiamo alla prima. Questa crisi finanziaria, di carattere finanziario, ha rimesso in discussione anche alcuni percorsi della globalizzazione, nel caso specifico l'assenza nei mercati, per quello che riguarda i mercati, i flussi di capitale di un ente unico di controllo. Insomma, non è un gran periodo per chi fa il profeta della globalizzazione dei mercati. Vale anche per quello che riguarda i prodotti agricoli. Voglio dire, voi siete a favore o no di un aumento della liberalizzazione dei commerci nel settore agricolo? Perché spesso si è detto aumentare la liberalizzazione degli scambi è un modo anche per aiutare i paesi in via di sviluppo a entrare in un circuito più allargato e più profittevole per loro. Noi siamo dell'avviso che il valore della liberalizzazione debba essere misurato in termini di ricadute per le economie e anche per i cittadini che alimentano queste economie con le loro attività economiche. Quindi la liberalizzazione trova anche una sua ragion d'essere laddove determina una corretta distribuzione della ricchezza ed un aumento della ricchezza prodotta. In tale direzione riteniamo di poter considerare quindi la posizione italiana e quella europea una posizione che deve trovare all'interno degli organismi internazionali una forza politica in grado di stabilire un principio di reciprocità di comportamenti anche in termini produttivi che consenta al mondo della produzione europeo ed italiano di poter concorrere in un mercato globale con però reciprocità e corrispondenza anche in termini di regole e di assetti commerciali. Ecco, Presidente, per far capire a tutti in una battuta, che cosa temete concretamente da una liberalizzazione spinta, diciamo? Temiamo innanzitutto decadimento in termini qualitativi delle produzioni. Temiamo che ci siano delle condizioni tali da determinare un indebolimento delle filiere agroindustriali italiane che oggi valgono 15,7% del prodotto interno lordo del nostro paese. E temiamo soprattutto che una volta compromessa la base produttiva agroindustriale di un paese come il nostro non si sia in grado nel breve periodo di sostituirla. In poche parole, delegare l'agricoltura e il suo sistema di filiere ad altre aree del globo ha significato in questi anni indebolire l'economia degli Stati membri e quindi anche dell'Italia. Credo che occorra più equilibrio e lungimiranza. Ultimo aspetto, la proposta che voi avanzerete in questo forum di Confagricoltura, proposta che riguarda un tema abbastanza delicato, molto si parla del demanio pubblico in questi giorni. Abbiamo visto Michelle Obama coltivare l'orto della Casa Bianca. Ci state proponendo di utilizzare il demanio per trasformarlo in tanti orti, orticelli, campi, che per carità non sarebbe nemmeno una brutta cosa, o invece come si articola la vostra proposta sulle superfici attualmente di proprietà degli enti pubblici? Ma si articola in una logica produttiva. Noi riteniamo che l'ampliamento della base produttiva sia stato sancito in termini di obiettivi dall'Unione Europea e anche a livello internazionale. Come si deve porre il nostro paese per ampliare la base produttiva? Mettendo a coltura e a servizio della collettività quel circa 3 milioni di ettari, in particolar modo circa 300.000 ettari di superficie agricola utilizzabile, in modo tale da aumentare la dimensione economica delle unità produttive agricole e nel contempo avere una produzione nazionale che alimenti l'industria alimentare italiana. Perché forse non tutti sanno che, come si diceva una volta, la produzione, la superficie coltivata nel paese in questi anni è calata. È calata, abbiamo consumato circa 3 milioni di ettari, abbiamo una dimensione media aziendale di circa 5,8-6 ettari per unità produttiva contro i 25-30 della media europea. Abbiamo dunque una condizione che è tutta di contesto e che deve essere superata con una politica economica che metta in libertà produttiva dei terreni sottoutilizzati. E allora grazie e in bocca al lupo chiaramente anche al presidente di Confagricoltura Federico Vecchioni. Ricordo gli ospiti, oltre al ministro Monti, di cui adesso ascolteremo alcuni passaggi, anche domani sarà la volta di Jacques Attali. Interessante sapere quali suggerimenti arriveranno da chi presiede questo comitato misto per risolvere i problemi, cercare di risolvere i problemi economici in Francia, e poi il presidente dell'ANI, quello dell'ABI, quindi Cerchiai, Faissola, numerosi esponenti, il ministro Sacconi. Sabato sarà la volta anche di Pierluigi Bersani, oltre che del premio Nobel di Trevi Montalcini. Grazie ancora quindi al presidente Confagricoltura. Grazie a voi. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni dagli studi di Radio 24 al Forum di Taormina organizzato dalla Confagricoltura. Arriveremo, come dicevo, fra pochi minuti anche alla giornata di borsa, quanto mai interessante. Vorrei però concludere i temi dell'agricoltura ripartendo anche da quanto ricordava il Presidente della Confagricoltura Federico Vecchioni e ringraziando il Sottosegretario delle Attività Produttive con delega al commercio estero Adolfo Urso che ci ha raggiunto negli studi. Buonasera onorevole. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori, buonasera. Si diceva con Federico Vecchioni attenzione alla liberalizzazione spinta nel settore agricolo proprio sul tema del passaggio, della necessità di passare da un bisogno alimentare al fabbisogno agroalimentare. Confagricoltura stima che la liberalizzazione totale degli scambi determinerebbe una flessione delle produzioni agroalimentari ed un aumento dei prezzi. Tema molto delicato perché riguarda più in generale la liberalizzazione degli scambi, di cui lei molto si è occupato e si occuperà, e che entra in un contesto in cui, quanto a globalizzazione, diciamo, abbiamo visto anni migliori e ha goduto di stampa migliore il concetto di globalizzazione. Onorevole Urso. Ma io credo che non bisogna confondere le liberalizzazioni con l'arbitro dei mercati. Le liberalizzazioni vanno sempre regolate dagli stati e dagli accordi fra gli stati e quindi in questo caso anche da accordi bilaterali e multilaterali all'interno del WTO. In questo contesto penso che una maggiore apertura dei mercati potrebbe essere salutare nel complesso per quanto riguarda proprio questa fase di depressione economica. Io mi impegnerò perché la riforma globale del commercio, già avviata a Doha e poi impantanatasi lo scorso anno a Ginevra, possa concludersi al più presto, consentendo quindi alle imprese italiane, europee, internazionali di avere un quadro del commercio mondiale certo, chiaro, definitivo, come giusto così sia, per programmare i propri investimenti. E all'interno di questo quadro, per quanto riguarda il settore agricolo e il settore agroindustriale, credo che le intese che si profilavano lo scorso anno siano utili all'agricoltura italiana, perché avrebbe comunque preservato la produzione italiana per quanto riguarda i cosiddetti prodotti tipici mediterranei, magari a scapito di quelli continentali che sino ad oggi l'Europa ha difeso meglio per la capacità dei governi del nord europeo, e nel contempo avrebbe aperto, e io mi auguro che apra, alla produzione agroindustriale italiana, che è quella che poi traina l'agricoltura italiana, nuovi più significativi mercati, sia per la riduzione delle tariffe per esempio nei paesi OCSE, nei paesi più ricchi industrialmente avanzati, sia per il riconoscimento delle cosiddette indicazioni geografiche e quindi della produzione tipica e di qualità italiana, che è un baluardo della nostra trattativa, che è direi un impegno assoluto su cui non molleremo mai. Quindi, se ho ben capito, all'interno di queste o con queste garanzie e specificità, appunto l'indicazione geografica, la riduzione di alcune tariffe, si può ragionare su un incremento della liberalizzazione degli scambi agricoli, cioè tutelato così il prodotto europeo? Regole più chiare, condivise e paritetiche per combattere per esempio la concorrenza sleale, i processi di imitazione che esistono. Esistono a Occidente e Oriente i falsi o le imitazioni nel settore agroalimentare, per esempio esistono più negli Stati Uniti, nel Canada, in Brasile che in Cina, dove invece la contraffazione è di origine industriale. Quindi noi abbiamo bisogno di un mondo aperto, ma nel contempo di un mondo che rispetti sino in fondo le regole, a cominciare dal diritto di proprietà intellettuale largamente inteso, e quindi anche dei marchi, dei brevetti, delle indicazioni geografiche, dei DOP e degli IGP. E questo è un mondo con regole chiare, condivise, rispettate da tutti, è un mondo che sancisca davvero il principio della concorrenza leale, può anche essere un mondo più aperto, con meno dazi e meno protezione. Ben sapendo però, è la crisi alimentare che si sta verificando nel pianeta e l'aumento del costo delle prodotti alimentari che si è realizzato in Italia e in Europa dimostra che dobbiamo nel contempo garantire comunque sempre la sovranità alimentare in Italia e nel nostro continente. La sovranità alimentare significa anche in Italia e in Europa sicurezza alimentare. Ed oggi il cittadino e il consumatore giustamente è molto più attento alla sicurezza alimentare di quanto lo sia stato nel passato, e questa sicurezza alimentare può essere certamente meglio garantita dalla sovranità alimentare. Per questo, su questo, noi dobbiamo valorizzare la nostra produzione agricola, tutelarla e rappresentarla. Un'ultima battuta, veramente i temi che riguardano l'Europa, l'anno scorso e 2 anni fa proprio in questo forum di Confagricoltura era molto delicato il tema della protezione della Fischer Boel, il commissario europeo dell'agricoltura, molto attenta, diciamo così, ai prodotti del nord Europa, latte e burro, un po' meno attenta ai prodotti di larga scala del Mediterraneo. Ho capito il pomodoro pachino e alcune produzioni molto, molto sofisticate, ma la nostra agricoltura significa anche fare volumi, fare massa. Come sta andando, di qualità, ma fare massa? Come sta andando in questo momento il rapporto con la Fischer Boel e con Bruxelles in generale? Io direi che siamo finalmente riusciti a farci capire e a farci rappresentare al meglio, perché, lo ripeto, nel pacchetto agricolo che si stava scrivendo lo scorso luglio a Ginevra nell'ambito delle nuove regole del WTO, tutti gli interessi del mondo agricolo italiano erano pienamente rappresentati, magari una volta tanto a scapito di quelle del mondo agricolo francese o irlandese o del nord Europa, perché tutti i prodotti tipici del nostro Mediterraneo erano stati esclusi, almeno così ci sarà data assicurazione dal commissario europeo, dalla lista dei cosiddetti prodotti tropicali. E nel contempo le eventuali riduzioni dazi che si sarebbero determinate avrebbero colpito soprattutto i prodotti del nord Europa, non certamente quelli mediterranei, in modo tale che ci sarebbe stato finalmente un riequilibrio tra i prodotti mediterranei così scarsamente tutelati negli anni passati e i prodotti continentali così molto più tutelati sino ad oggi. Questa dimostrazione che il governo italiano ha finalmente avuto la capacità di incidere e ha capacità di incidere nelle scelte che oggi Bruxelles fa, in questo campo come negli altri. Bene, grazie anche a lei, sottosegretario Adolfo Urso, e termina questa prima parte di oggi a Focus Economia dedicata all'agricoltura. Domani vi torneremo con interviste anche al mondo agricolo. Adesso torniamo o andiamo agli altri temi di questa giornata economico-finanziaria, e in primo luogo i mercati finanziari, visto che la chiusura comunque si è mantenuta buona anche oggi, più 1,1% il MIBTEL, più 1,3% l'S&P MIB, e di nuovo Milano tra le migliori, la migliore in Europa. Parigi infatti ha chiuso invariata, Francoforte più 0,80%, Londra più 0,5%, l'America sta guadagnando lo 0,90% sul Dow Jones e guadagna il 2,21% sull'indice Nasdaq. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni dagli studi di Radio 24 qui a Taormina per la prima giornata di lavori del forum di Confagricoltura Futuro Fertile. Sta parlando in questo momento il ministro Giulio Tremonti, l'economia, e allora nei commentare anche i mercati finanziari, che ripeto, bene Milano oggi, meglio di altre borse europee, c'è un passaggio che Tremonti ha appena illustrato che vi farei ascoltare, perché riguarda da vicino la domanda che da alcuni giorni ci stiamo ponendo, cioè siamo sempre in mezzo alla crisi, ma si è arrivati alla parte, diciamo, peggiore, quindi si è toccato tra virgolette il fondo, o ancora c'è da venire? Beh, la risposta e il commento che Tremonti ha dato qualche istante fa sulla crisi può aiutare anche a capire almeno quale sia l'orientamento del Ministro dell'Economia. Sentiamo Tremonti. La mia impressione è che la fase della crisi finanziaria, il rischio di un Armageddon finanziaria in America, sia in un qualche modo terminato. Non vuol dire che è finita la crisi, ma l'impressione, se volete non è la mia impressione, quello che ti dicono i responsabili di quelle politiche, l'impressione è che fenomeni come Lehman Brothers, fenomeni di caduta di sistema, siano in un qualche modo esclusi. Questo, ripeto, non vuol dire che è finita la crisi, che è finita la crisi finanziaria, ma il rischio dell'Armageddon finanziaria, del crollo di sistema, ti dicono quelli che governano che forse è in un qualche modo gestito, superato. Anche in Europa il rischio finanziario sembra in un qualche modo ma anche questa è un'opinione, un'impressione, e a beneficio della stampa dico che non sto dicendo cose nuove, ma cose che sanno tutti e dicono tutti da giorni, giorni e giorni, è stato in un qualche modo gestito, per esempio con un intervento significativo e importante nell'ultimo vertice europeo dei capi di Stato e di Governo, l'ultimo weekend. Il rischio di crisi finanziarie, non in America ma in Europa e non nel cuore dell'Europa ma a est, è in un qualche modo gestito o gestibile a seguito di scelte che sono la scelta della Commissione europea di incrementare il fondo per gli interventi finanziari nell'est e la scelta di tutta l'Europa di integrare la dotazione del Fondo Monetario Internazionale per attivare meccanismi di intervento anti-default. Quindi qualche istante fa il ministro Tremonti, avete ascoltato tutto il ragionamento, è una sua opinione, ma la parte peggiore, l'Armageddon, ho usato un'espressione hollywoodiana, Tremonti, della crisi finanziaria, della parte di rischio finanziario, di stabilità finanziaria in America e anche in Europa, dovrebbe essere stato evitato. E questo già vuol dire qualcosa, perché spesso abbiamo ricordato come da questa crisi uscirà prima ragionevolmente la parte che prima c'è entrata, cioè la finanza, la borsa, e poi più in ritardo, se tutto andrà bene, anche il resto dell'economia, la cosiddetta economia reale. Veniamo ai titoli. Di nuovo in evidenza oggi Banco Popolare, che continua a beneficiare dei conti e dell'immagine di maggior pulizia dentro la banca, oltre che del ricorso, dell'aver fatto richiesta di prenotare i Tremonti Bond. Molto bene anche Fiat, è trascinata da Volkswagen. Il titolo Volkswagen oggi molto bene è andato in Europa, e Fiat tra l'altro oggi è tra le migliori in Europa come andamento. Guadagna il titolo Fiat a questo punto il 6,2% a 4,80 euro, mi sembra, in chiusura. Sì, su Fiat hanno influito in maniera positiva anche le parole del numero uno Marchionne, che ha detto insomma la parte peggiore è passata, si riferiva al settore auto, annunciando appunto dati migliori grazie agli incentivi non solo a livello italiano ma anche a livello europeo. ST Microelectronics guadagna il 6,1%, bene anche Saipem, più 6%, e su Saipem c'è un nuovo contratto, una firma di un nuovo contratto per un impianto di perforazione, quindi notizie che riguardano direttamente il titolo e non il settore. Ancora Intesa San Paolo più 5,7%, mentre sul fronte bancario oggi segnaliamo prese di beneficio su altri titoli bancari. Mi riferisco soprattutto a Unicredito, che ha perso il 2,7%, ma anche Mediobanca, che ha perso lo 0,80%. Dicevamo Intesa San Paolo di nuovo forte in borsa, e a questo punto il titolo quota 2,08 euro, quindi torna ampiamente sopra i 2,08 euro nella chiusura, anzi l'ultimo prezzo in chiusura è 2,02 euro. E così come l'ultimo prezzo per Fiat, mi correggo, è 5,1 euro per azione. Fiat di nuovo sopra i 5 euro per azione. Andiamo avanti, Buzzi Unicem più 5,6, Finmeccanica più 3,86, Unipol più 3,7 come la Popolare di Milano, Ubibank più 3%, guadagna il 2,90 anche il Monte dei Paschi, il 2,2 Tenaris. Chiudiamo con le Generali più 1,96%, Mediolanum più 1,7%. Per cento, e Luxottica più 1,6, le CIR 1,5 percentuale di rialzo. Male e negativa si diceva invece per quello che riguarda i titoli, si diceva Mondadori assieme ad altri titoli. Male e negativa perché oggi, diciamo, la notizia che Mondadori non avrebbe distribuito dividendo è una notizia che chiaramente non è piaciuta al listino. E infatti troviamo tra i titoli che più hanno perso oggi in borsa proprio il titolo Mondadori, meno 4,32%, A2A dopo i conti, oggi devo dire deboli tutti gli energetici, A2A meno 3,7%, Terna meno 2,4%, Snam meno 1,20%, Enel meno 0,30%, l'unica Eni che ha chiuso praticamente invariata con uno 0,1% di rialzo. Adesso il nostro GR e poi... sempre per quello che riguarda la cronaca di questa giornata economico-finanziaria, ci occuperemo delle nuove previsioni diffuse oggi dal Centro Studi Confindustria un bel peggioramento sulla chiusura dell'anno, il 2009 meno 3,5%, ma nel 2010 un più 0,8%, se confermato vorrebbe dire che se si tiene botta quest'anno poi si riesce anche a respirare, a ripartire nel 2010. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia, sempre in diretta dagli studi di Radio 24 qui a Taormina per la prima giornata di lavoro, di lavori della tre giorni della Confagricoltura Futuro Fertile. Sta ancora parlando il Ministro dell'Economia Giulio Tremonti e vi abbiamo già fatto sentire il passaggio in cui diceva sostanzialmente Tremonti che il rischio più grosso di collasso finanziario in America e in Europa, l'ha chiamato l'Armageddon finanziario, per quello che lui vede, per i segnali che riceve, sembra essere superato. Ha continuato dicendo che ha altri segnali modesti, ma insomma di una lancetta che non è più spostata solo nella parte negativa, lui li sta vedendo, e ha anche criticato la possibilità che si possono fare in questo momento delle previsioni, che abbia un senso fare delle previsioni economiche. Di questo parleremo, anche perché invece oggi il Centro Studi di Confindustria ha dato una nuova stima sul PIL italiano nel 2009, meno 3,5% contro il meno 2% previsto inizialmente, quindi un netto peggioramento. La buona notizia è che nel 2010 ci dovrebbe essere una crescita, un più 0,8% per quello che riguarda l'andamento della nostra economia. Questi temi che tratteremo, ripiego allora brevemente per chi si fosse appena messo in ascolto le notizie in breve di questa giornata economico-finanziaria. Anche il PIL americano, ma è quello che riguarda l'ultimo trimestre 2008, è stato rivisto leggermente a ribasso, meno 6,3%, confermato invece altri dati che riguardano l'andamento economico americano, ma per quello che ha a che fare con i dati statunitensi che stanno arrivando in chiaroscuro, abbiamo avuto utili societari che hanno avuto il calo più forte dal 1953, meno 16,5 il calo complessivo degli utili delle società americane. Il dato emerge oggi, appunto, ed è relativo al 2008, è la contrazione più forte dal 1953. Sono aumentate di nuovo le richieste di sussidi alla disoccupazione, hanno toccato quota 652.000, sopra le stime degli analisti. Ricordo che invece ieri erano arrivati dall'America due dati migliori, nettamente migliori delle attese degli analisti, ossia un incremento delle vendite di nuove case contro attese di un calo delle vendite di nuove case, e dall'altro punto di vista un aumento per la prima volta da oltre un anno degli ordinativi dei consumi di beni durevoli. Ancora il dato sul commercio con l'estero italiano, ne abbiamo parlato prima anche con il sottosegretario Adolfo Urso. Ebbene, meno 22% l'andamento a febbraio del nostro export fuori dall'Europa e meno 24% le importazioni. È il calo peggiore di sempre nelle nostre esportazioni, però attenzione, anche qui lo continuiamo a dire, i dati che vedremo da qui a giugno saranno dati pesanti, pesantissimi, ma sono dati, diciamo, vecchi. Questo dato riguarda il mese di febbraio. L'importante sarà capire se nel frattempo il quadro economico vada lentamente migliorando oppure se si sia ancora in profondo rosso. Comunque, invece è migliorato il saldo commerciale dell'Italia con i paesi fuori dall'Unione Europea. I due dati non sono in controtendenza, nel senso che le importazioni sono calate più di quanto non siano calate le esportazioni, quindi il saldo, la differenza tra le due cose migliora, e infatti è stato negativo a febbraio per 722 milioni. L'anno scorso invece a febbraio era negativa la bilancia commerciale fuori dall'Europa per 1 miliardo e 300 milioni. E la crisi colpisce anche un colosso della moda low cost come il gruppo svedese H&M. Per la prima volta dal 2003, infatti, e quindi da 6 anni, ha avuto un calo nell'utile netto. Resta inutile il gruppo, ma è sceso a 320 milioni di dollari. Della borsa dicevamo anche di Fiat. Tra l'altro oggi la Fiat, grazie al buon andamento degli incentivi auto, ha annullato la settimana di cassa integrazione a Mirafiori, quella prevista dal 30 marzo al 5 aprile, lo si è appreso da fonti sindacali. E per far fronte alla domanda della grande punta a metano, lo stabilimento di Melfi, della Fiat sempre, attuerà la produzione anche il sabato in straordinario sul primo e sul secondo turno. È una buona notizia, perché vuol dire che la domanda è superiore a quanto non fosse previsto. Ancora per quello che riguarda il piano casa, è intervenuto su questo il presidente del Consiglio Berlusconi, ha detto potrebbe generare, se solo il 10% degli aventi diritto ricorresse al piano per l'edilizia, genererebbe un aumento del PIL di circa 50 miliardi di euro. Ma sempre sul fronte del piano casa ha detto non cambia nulla, stiamo discutendo sullo strumento da usare. Sentiamolo questa mattina a Panorama del Giorno a Canale 5. Si sta semplicemente discutendo sullo strumento, un decreto legge o un disegno di legge. Naturalmente noi preferiremo il decreto legge, che è immediatamente efficace. Il disegno di legge impiega più tempi in Parlamento, ma stiamo lavorando con le regioni affinché siano le regioni, che hanno la competenza concorrente con lo Stato sulla materia abitativa, a tradurre questa intuizione in una legge regionale. Se pensiamo che ogni camera è un servizio in più, potrebbe essere una cifra di spesa di 50.000-70.000 euro, messe tutte insieme queste spese potrebbero portare a una immissione nel nostro prodotto interno di oltre 50 miliardi di euro. Questo se soltanto il 10% ricorresse a questa possibilità. Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, dopo le informazioni per chi è in viaggio, a questo punto le previsioni del Centro di Confindustria e come queste previsioni decisamente più negative sul 2009, meno 3,5%, è veramente un calo pesante del PIL, si inseriscono in un ragionamento fatto anche poco fa dal Ministro Tremonti, cioè qualche segnale positivo, il segnale che la parte peggiore dal punto di vista finanziario e forse anche economico dovrebbe essere superata, o comunque dovrebbe essere alle nostre spalle. ...18:18, ultima parte di Focus Economia. Allora, dicevamo dell'intervento che si è appena concluso del Ministro Tremonti qui a Taormina al forum di Confagricoltura. Ha parlato anche di previsioni economiche o della loro inutilità per quello che riguarda le previsioni congiunturali, restano solo quelle di grandi numeri statistici, ha citato questo caso, in questo caso la demografia. Noi invece parliamo di previsioni economiche perché oggi ne è arrivata una che rappresenta un'ulteriore gelata sulla prospettiva economica italiana del 2009, mi riferisco alla stima del Centro Studi Confindustria di un PIL che calerà quest'anno del 3,5%. Pensate che a dicembre la stima del Centro Studi Confindustria era di un calo dell'1,3%, quindi è più che raddoppiata, anzi siamo a 3 volte peggio. Invece migliore la previsione, anzi dovrebbe essere l'anno della svolta, il 2010, con un PIL italiano che dovrebbe crescere dello 0,8%. Saluto e ringrazio allora innanzitutto il direttore del Centro Studi Confindustria, Luca Paolazzi, buonasera. Buonasera a tutti. Ti farei, visto che sei un collega, ci conosciamo da tempo, non riesco a non darti del tu, ti farei ascoltare la dichiarazione che ha reso poco fa il ministro Tremonti, anzi due dichiarazioni, una l'abbiamo già sentita, riguardava l'Armageddon finanziario. Io ho detto termine hollywoodiano, avete ragione, è un termine più biblico, ma diciamo, il rimando è anche hollywoodiano. Tremonti ha detto in sostanza dovrebbe essere alle nostre spalle il rischio del collasso finanziario sia in America che in Europa, e poi ha continuato proprio in questi istanti ricordando come alcuni segnali positivi stiano arrivando e che quindi la lancetta non sia più come un mese fa tutta nella parte negativa. Sentiamo. Se andiamo a vedere alcuni di questi indicatori empirici, piccoli, tuttavia vediamo che per ora emergono alcuni dati positivi, relativi a come era un mese fa, relativi a come è da altre parti. Io utilizzo alcuni dati. Il primo è quello dell'Agenzia delle Dogane, i dati fisici di import-export nei porti. La quantità che si muove nei porti italiani nel commercio extra europeo, perché non ci sono dogane Europa su Europa. Ebbene, lì i dati indicano la fine della caduta e all'opposto una relativa tenuta. Sono ancora dati preliminari, sono dati da un mese sull'altro, ma la freccia ha finito di essere tutta verso il basso. E lo stesso riguarda un altro indicatore estremamente, in un qualche modo, voi direte strano, inusuale, le poste, la quantità di lettere e di pacchi spediti. Era scesa, si è stabilizzata. E lo stesso riguarda il traffico sulle nostre autostrade. Alcuni dati indicano che non c'è una tendenza totalmente negativa verso il basso. Ci sono alcuni indicatori che ci mettono o in posizione meno negativa di altri paesi o in posizione un po' più positiva di come era in gennaio. Questo non vuol dire che la crisi è finita, ma vuol dire che devi considerare alcune cose negative ma anche alcune cose positive. Allora, Luca Paolazzi, questo è il ragionamento che fa Pandan con quello fatto che abbiamo fatto sentire nella prima ora del ministro Tremonti sulla parte finanziaria. L'Armageddon finanziario dovrebbe essere alle nostre spalle. Nel giorno in cui il dato di febbraio sull'export segna export fuori dall'Europa il peggior dato, meno 22% da sempre, e nel giorno in cui voi dite nel 2009 faremo un meno 3,5%. Allora, i dati che Tremonti citava sembreranno anche strani, ma sono empirici. Spesso abbiamo detto che proprio il traffico autostradale di camion, di merci o le dogane era un indicatore molto più utile di tante analisi sulla crisi. Come si tengono assieme le due cose? E anche voi ricevete qualche segnale che, insomma, non sia solo tutto più negativo? Comincio dalla seconda domanda. La risposta è sì, tanto è vero che le nostre previsioni dicono ripresa nella seconda metà del 2009. Credo che in questo momento non ci siano molti centri studi che abbiano il coraggio di fare questa affermazione. Rispondo, diciamo, alla prima domanda. Il fatto è che il dato 2009, il dato medio 2009, è totalmente influenzato da quello che è già successo alla fine del 2008, con due punti di crescita negativa ereditati per quest'anno, e a quello che sta succedendo, o è ormai successo nel primo trimestre di quest'anno, con una variazione negativa che noi stimiamo in un meno 1,4%. Questo vuol dire che quello che comunque abbiamo, se in poi il PIL non dovesse più variare, è un meno 3,3%. Più che questa è una constatazione, quindi si sposta i segnali positivi che vengono anche da oltre Atlantico. Per esempio, negli Stati Uniti sono state riviste all'insù le previsioni da parte dei banchieri che erano mutui ipotecari, e il 2009 sarà il quarto anno record, nel senso non il primo, non il secondo, ma il terzo, ma il quarto per numero di mutui erogati. Oppure le vendite al dettaglio, che sono andate sorprendentemente bene a febbraio, oppure l'aumento delle costruzioni, gli acquisti di case nuove e non nuove, l'aumento degli ordini di beni durevoli sempre negli Stati Uniti. Penso diciamo che ci siano le condizioni per la ripresa. Queste condizioni sono la riduzione dei tassi di interesse, il risparmio energetico che per l'Italia vale circa 36 miliardi di euro quest'anno e per il mondo intero sono circa 1000 miliardi di dollari, le politiche economiche espansive che nel mondo intero sono 1,8% di PIL, nell'area dell'Unione Europea sono 0,9%, gli incentivi che sono stati dati ad alcuni settori che in effetti stanno portando per esempio l'annullamento della cassa integrazione a marzo per quanto riguarda la Fiat. Quindi ci sono segnali positivi. È chiaro che non sono sufficienti a parlare già di ripresa in primavera, assolutamente no. Penso che in primavera avremo ancora un calo del PIL, però sono sufficienti a dirci che nella seconda metà dell'anno, con tutti i ritardi che sempre si verificano in questi casi, perché tutte queste condizioni favorevoli non operano immediatamente, occorre del tempo prima che i comportamenti reagiscano alla constatazione di avere più soldi a disposizione grazie appunto a bassi tassi, basso prezzo dell'energia, misure espansive, occorre del tempo perché prima queste reazioni e comportamenti si adeguino. Quindi è importante quello che tu ricordavi e quello che noi ormai diciamo da giorni. Attenzione, è ovvio che l'interesse principale di tutti è capire come andrà, non come è andato. Sappiamo che siamo entrati nel 2009 in una maniera disastrosa come economia e quindi questo si trascinerà come un effetto, come un'influenza, come un virus anche nei prossimi giorni e quindi nei prossimi mesi, però attenzione che tutti gli occhi devono essere puntati sulla prospettiva. Vedere il vostro centro studi che quantificano un più 0,8% la crescita nel 2010 è già di per sé stessa l'idea che la crisi finirà, diciamo, col terzo trimestre, se ho ben capito Luca Paolazzi, o quarto trimestre nella parte più virulenta, ed è importante perché migliaia di imprese in questo momento devono sapere più che le cose vanno male nel presente, che le cose miglioreranno nel futuro, in modo da poter tenere duro, stringere i denti, cercare di arrivare, traguardare fino alla fine del 2009 o comunque del terzo trimestre del 2009. Grazie al direttore del Centro Studi di Confindustria Luca Paolazzi, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia in diretta da Taormina. Domani saremo ancora in diretta per la seconda giornata di lavori del Forum Futuro Fertile, numerosi interventi tra cui anche di importanti banchieri, presidente dell'ABI Faisola, il numero uno di Intesa San Paolo Corrado Passera, il numero uno dell'ANIA Fabio Cerchiai. Da Sebastiano Berisoni un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione, Davide Cioccia e Pietro Lacorte per l'assistenza tecnica.